La soluzione del quiz, vi ricordate? Siamo tornati al 18 maggio del 1953. Qual era la notizia importante che fece il giro del mondo? Allora, nave spinta da un reattore nucleare? No. Auto con il cambio automatico la prima? Nemmeno. Sì, il 18 aprile del 53 Jackie Cochran a bordo di un F-86 Super Sabre superò la barriera del suono, che nel linguaggio aviatorio vuol dire superare Mach 1, ovvero 340 metri al secondo. Il suono viaggia a 300 metri al secondo. Jackie era una donna americana nata nel 1904, in volo fin da giovanissima e anche impegnata durante la Seconda Guerra Mondiale ad addestrare degli equipaggi femminili, ci furono assolutamente, dell'aviazione statunitense impegnati nel secondo conflitto mondiale. Tipicamente volavano sui bombardieri. Attenzione, superare la barriera del suono nel 1953 non era cosa banalissima, lo si faceva solo da 5 anni. E poi Jackie superò anche Mach 2, che in gergo vuol dire 2 volte la velocità del suono. Questa era la soluzione del nostro quiz.